Capitolo 7. Venezia, 29 maggio 1545. Al primo sguardo distante, reso più incerto dai veli di nebbia che fanno del sole un disco biancastro, non sai se il miraggio sia il mare che stai solcando, e invece è terraferma, o i palazzi e le chiese appoggiati sull'acqua, in realtà scogli di forme architettoniche. Poi il barcone infila un largo canale. Finestre, balconi e giardini danzano come macchie di colore e si diffondono tra le sponde. Ai lati si aprono vicoli navigabili da una sola piccola imbarcazione alla volta, talmente stretti alcuni che i tetti delle case sembrano toccarsi, impedendo ai raggi del sole di filtrare. Perna mi ha parlato di chiese, di palazzi, di piazze e bordelli, ma non mi aspettavo il miracolo delle vie d'acqua, il numero impressionante di barche d'ogni forma e dimensione che sostituiscono le carrozze, le portantine e i cavalli. Questa città sembra non conoscere la ruota, né il passeggio fitto delle strade principali, costruzione assurda che sfida ogni logica d'architetto e sembra quasi galleggiare sul mare, tanto da far impallidire Amsterdam e le terre d'Olanda, strappate all'oceano dalla tenacia delle genti del nord. I gabbiani solcano il cielo pallido e trovano appoggio su pali robusti, fitti, spesso colorati e decorati di stemmi, che spuntano, come tronchi in un bosco, dai bassi fondali e fanno da ormeggio a barche di forme e dimensioni diverse. L'orizzonte angusto via via si allarga, ad abbracciare ancora un'isola sulla destra e un insieme maestoso di costruzioni dalle tinte opache, su cui spicca altissimo un campanile robusto, squadrato, appuntito come una freccia. Sulla sinistra si apre una nuova via d'acqua, vera strada fluttuante, con i portoni e i gradini dei palazzi tuffati direttamente tra i flutti, come non ho mai visto in alcun paese che abbia un fiume o qualcosa di simile. La città e il mare sembrano cresciuti insieme. Lo scafo ormeggia quasi sotto il magnifico balcone di un palazzo, tutto rivestito di marmo rosato, a fianco di una colonna con la statua del leone alato e di quello che deve essere il palco per le esecuzioni capitali. Gli strumenti e i simboli del potere della Serenissima sono le prime immagini che lo straniero deve avere sott'occhio. Appena messo il piede a terra, invece, colpisce la confusione, il viavai di gente, le grida, gli affollamenti, i saluti, le liti. Forse è l'unico elemento a separare il mare, luogo di rumori attutiti, dal resto della città. Appena messo il piede a terra, non so in virtù di quali caratteristiche, vengo riconosciuto subito come uno straniero di lingua tedesca e circondato da una ventina di ragazzi che si sforzano di spiegarmi come sia impossibile girare Venezia senza conoscerla a fondo, quanto sia grande il rischio di perdersi, di finire in cattive mani, di rimetterci con il cambio. E mentre elencano cortesemente questi rischi, cercano in tutti i modi di infilarmi le mani nella borsa. «Magnifico signore! Di qua, seguimi, gran signore! Vuoi un posto dove dormire? Vuoi? Vieni con me, illustrissimo! Ti mostro la città più bella del mondo! Dov'è il tuo bagaglio, magnifico? Alla stazione di cambio? Brutto posto, mio signore! Non è degno di un grand'uomo!» La voce esce da una bocca completamente sdentata e ricorda decisamente quella di un vecchio. Ma il ragazzo, che per qualche spicciolo si è offerto di mostrarmi la città, non può avere più di 15 anni. «Vieni, vieni! Vuoi bere del vino? No? Vuoi una donna? Qui trovi le donne più belle da Costantinopoli a Lisbona. Non care, signore, non care, no. Vieni, vuoi una donna? Ti porto io dove ci sono le più belle, pulitissime, niente malattie, no, no, giovanissime. Sei qui per fare affari, nobilissimo? Seta? Spezie? No? Ti porto nel posto giusto, qui vicino. Vieni, bellissimo posto, gran signori come te, mercanti, vieni, vieni!» Mentre attraversiamo la piazza, la sua lingua non si ferma. Si rivolge in veneziano a chiunque cerchi di avvicinarsi, tenendo la debita distanza, portandosi una mano sul petto a indicare che lo straniero è suo, nessuno glielo tocchi. «Seguimi, signore. In un attimo siamo a Rialto e al fondaco dei tedeschi. Là puoi cambiare tutti i soldi, fare i tuoi commerci, sì, ma se desideri stare contento, ci sono io. Ti do 50 ducati per 32 fiorini di peso regolare.» Piazza San Marco non sembra far parte di una città. Piuttosto è il salone delle danze di un qualche palazzo, il ponte coperto di un grande vascello. L'albero maestro è quel robusto campanile, largo alla base e stretto in cima. E la torre con l'orologio è il cassero di prua, sotto cui passiamo ora, con i due ammiragli in cima pronti a suonare il campanone. Quella è la sede dei procuratori di San Marco, grandi magistrati della Repubblica, procuratie si chiama, Ora prendiamo per le mercerie. Vuoi comprare stoffe? Spezie? Ti dico dove comprarle e dove venderle a un buon prezzo. Vuoi fare affari di alto? Allora stammi vicino e non farti imbrogliare dai venditori, gran brutta gente, nobilissimo, disonesti. Non sono sicuro di aver compreso tutto quello che il ragazzo ha detto. Parla guardando avanti, senza voltare troppo il collo, in una lingua che riconosco appena e in mezzo a un pullulare indescrivibile di volti e di voci. Balbetto un incitamento ad andare e in un attimo mi ritrovo 50 passi dietro di lui, a naso all'aria, come un sughero nella corrente. Osservo i visi della gente che affolla queste strade strette di botteghe e banchetti. Ascolto i dialetti e le cadenze più strane. Una lingua che mi parla slava, un'altra che direi araba. Questa viuzza selciata mi scaraventa lontano dal mondo che ho conosciuto finora. Altre volte ho annusato l'odore delle spezie, altre ho aspirato il fumo del tabacco, ma mai come ora ho avvertito la sensazione di trovarmi a un crocevia di luoghi possibili. Un souk di Costantinopoli, un porto del Katai, una stazione di cambio a Samarcanda, una festa per le strade di Grenada. «Gran signore, allora vuoi comprare qualcosa? Chiedi a me, ti consiglio io!» La guida mi ha raggiunto di nuovo e mi strattona violentemente per un braccio. Mi scruta con uno sguardo strano e ho come l'impressione che cominci a dubitare delle mie capacità mentali. «Vedi, eccellentissimo, questo qui, che in tutte le città d'Italia si chiama piazza, qui a Venezia lo chiami campo, e le vie, e le strade, sono calle stretta stretta, e fondamenta a bordo del canale, e Salizzada, e la ruga». La strada si riaffaccia sull'acqua, in corrispondenza con l'imboccatura di un imponente ponte di legno. Dal numero delle navi ormeggiate sulle due rive del canale, alla destra del ponte, e dal traffico incessante di carico e scarico merci, pare proprio di essere arrivati nel cuore del commercio della Serenissima. «Rialto, signore!» Uno splendido ponte ligneo, con parte superiore apribile al passaggio delle navi più grandi. Sulla destra una loggia enorme, le pareti esterne affrescate per tutta la lunghezza del caseggiato. «Dipinti da Giorgione, eminentissimo, e dal suo allievo, Tiziano. Conosci?» «No, gran meraviglia, signore. Pittori famosi. Tiziano dipinge l'imperatore!» Nel cortile interno, il brusio indistinto che si leva dalle fitte trattative commerciali è composto da almeno quattro dialetti tedeschi. Gente del nord, teste bionde, baffi spioventi e mesciti di birra. «Il fondaco dei tedeschi, nobilissimo, per i tuoi affari. Banche, agenti, ricchi. Vedi quell'agenzia, là sotto? Fugger, i più grandi banchieri del mondo. Conosco la gente, posso presentartelo se vuoi, signore. È mio amico, gli procuro le puttane. Lui mi insegna la tua lingua». «Se volevo incontrare dei tedeschi restavo in Germania, non credi?» «Giustissimo, signore, non interessano i commerci. Meglio il piacere, no? Puttane bellissime. Un posto dove sistemarmi. Letto decente, vito decente. Dove non dare nell'occhio? Certo, magnifico. Detto fatto, vieni, ti porto io. Un posto discreto, buona cucina, buoni letti e buone donne. Molto buone donne, niente domande. Corte Rampani, in San Cassiano. Vieni, non è lontano. Passato il ponte. Donna Demetra ti conosce volentieri, un signore importante come te. Calle de Bottai, magnifico signore, siamo quasi arrivati. Ci sono puttane dappertutto. Le donne di questa città praticano qualche altro mestiere? Non così redditizio, signore. Il consiglio voleva confinare i bordelli in corte Rampani, ma non c'era posto per tutti, quindi, come dici, ha chiuso un occhio, sì? Ecco, questa è la locanda del Caratello. Annuncio il mio signore a donna Demetra». Le due ragazze, che stanno sulla soglia, dicono qualcosa in veneziano. Gran sorrisi e tette che traspaiono sotto i vestiti sufficientemente discinti. È una casa in legno e muratura, di tre piani. Sulla porta campeggia un'insegna raffigurante una piccola botte. La guida si intrufola dentro, lasciandomi in compagnia delle giovani puttane. «Allemanno?» Faccio un mezzo inchino, ricambiato da entrambe. Quella che mi sembra più giovane cerca le parole nella mia lingua. «Mercante?» «Viaggiatore», traduce per l'amica, e se la ridono insieme. Scopre una tetta prosperosa. «Vuoi?» Il tono più gentile che trovo. «Non adesso, mia cara. Ho bisogno di riposare le vecchie ossa». Forse non ha capito. Comunque, alza le spalle e si ricopre. La piccola radura, nella foresta di case, è interrotta da un ponte, all'apparenza troppo esile per reggere il peso di due soli uomini. Sotto, il canale limaccioso scorre placido. Mi rendo conto di aver perso del tutto l'orientamento. Abbiamo percorso un dedalo infinito di viuzze, ponti, piazze e sono quasi certo che non abbiamo viaggiato in linea d'aria. È impossibile in questa città. La guida spunta sulla porta facendomi segno di entrare. Un ambiente grande, una taverna con botti enormi in fila lungo il muro, un camino capiente e tavoli nel mezzo. È una donna sulla quarantina, quella che mi viene incontro e a cui faccio un inchino. Capelli corvini e un profilo tagliente, tratti esotici, che parlano del Mediterraneo. «Sono donna Demetra Boerio. Il giovane Marco dice che cercate un alloggio, messere. Siate il benvenuto». Si è rivolta a me in una lingua strana, ma comprensibile. C'è del latino colto, che rivela studi discreti, ma il saluto è stato in tedesco. Scelgo il latino. «Sono Ludwig Schalidecker, alemanno. Vorrei fermarmi per qualche giorno». «Tutto il tempo che vorrete. Abbiamo letti comodi e le stanze non sono care. Marco ha detto che avete lasciato il vostro bagaglio alla stazione di cambio. Non preoccupatevi, manderò il ragazzo a prenderlo. Di lui ci si può fidare. Lavora per me da quando era bambino». Le cose si fanno più chiare e mi strappano un sorriso. «Quando il bagaglio sarà qui, vi pagherò la camera anticipata». Marco lo sdentato lascia cadere la sacca sul pavimento e si toglie il sudore dagli occhi con la manica. Il ducato d'oro gli cancella subito la fatica dalla faccia. «Grazie, munificentissimo signore, mille volte grazie. Se ti serve altro, sì, chiedi a me e rimarrai sempre soddisfatto. Per adesso mi serve solo un'indicazione. Devo andare in un posto». Si illumina. «Dimmi, dimmi, signore, conosco tutta Venezia. Vuoi andare da qualche parte? Ti porto quando vuoi». «Non ora. Conosci la libreria di Andrea Arrivabene?» «Arrivabene il libraio?» «Certo, signore, si trova in merceria». «All'insegna del pozzo?» «Certo, nobilissimo. Poco tempo a piedi, oltre il ponte di Rialto. Vuoi andare là?» «Domani, adesso voglio riposare». Esce, inchinandosi più volte. Dalla finestrella scorgo le grandi cupole della cattedrale e il campanile. Dunque, è laggiù che sono sbarcato. In qualche modo ho attraversato il labirinto di questa città bizzarra che adesso mi separa da San Marco. Non saprei da dove incominciare se volessi percorrere la strada a ritroso. Rischierei di trovarmi a pochi passi dall'enorme chiesa senza riuscire a scorgerla, finendo chissà dove. Ed è proprio questa la sensazione che prevale, di poter continuare a camminare all'infinito senza giungere da nessuna parte, oppure in luoghi mai nemmeno immaginati, nascosti. La meraviglia ti aspetta dietro ogni angolo, in fondo a ogni vicolo. Venezia, mercanti, puttane, canali, accanto agli affreschi, alle chiese, ai palazzi, ai cantieri. Perna aveva ragione. Il contrasto e la possibilità si respirano nell'aria umida di queste strade. Il letto è comodo, le gambe hanno bisogno di riposo. Dalla cattedrale qui non è poi una grandissima distanza, ma tutto quel saliscendi di ponti, quei vicoli tortuosi. La prima cosa da fare è procurarsi una barca.